Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Oh, ciao Federico, buonasera a tutti, bentrovati. Un bel problema, i farmaci contraffatti. Sì, partiamo così in questa puntata variegata e poi parliamo anche della scienza nelle serie TV. Andiamo subito. Volge al termine la 4 giorni, credo anche 5, di Bologna Medicina, seconda edizione, un appuntamento con talmente tante tematiche diverse e sotto appuntamenti diversi che è praticamente impossibile raccontarveli qui, sintetizzarveli in onda. C'è ancora la giornata di domani e poi, se andate in rete e cercate Bologna Medicina, troverete parecchio materiale relativo anche a questa edizione. È molto interessante perché ci sono iniziative con un taglio molto divulgativo. Completamente ecco. Diverse una dall'altra, quella di cui stiamo per parlarvi adesso e poi per esempio delle divertentissime visite in corsia in cui si incomincia dal passato e si vede come erano trattati i pazienti, com'era la medicina fino ad arrivare ai giorni nostri. E sono proprio visite con pazienti messi lì con attori, però i medici sono assolutamente veri. Ebbene, questa mattina il tema è stato contraffare la salute e quindi un appuntamento su uno dei problemi più gravi che abbiamo certamente, ed è quella della contraffazione dei farmaci. I nostri ospiti. Sì. Qui con noi c'è il presidente della società di farmacologia. Diamo il benvenuto a Giorgio Canteliforti. Buonasera. Buonasera, grazie. E alla professoressa Patrizia Crelia, che è presidente della Società Italiana di Tossicologia. Benvenuta anche a lei. Buonasera a voi, grazie. Che cosa vuol dire medicinale contraffatto? Nel senso, dove lo troviamo? È un fenomeno molto diffuso? Fra le mani, com'è questa storia? Guardi, il fenomeno è a livello mondiale molto diffuso, è un fenomeno che in Italia è invece molto più contenuto, perché desidero subito garantire i nostri ascoltatori che in Italia abbiamo anche qui un sistema Made in Italy molto inefficiente, dove i controlli e la sicurezza viene garantita da delle autorità pubbliche, dei sistemi che vanno dalle dogane ai NAS, alle ASL e quant'altro, dall'AIFA eccetera. Per cui noi non dobbiamo creare ovviamente preoccupazione, ma dobbiamo richiamare l'attenzione agli ascoltatori di non fare da sé, di non andare a cercare farmaci per vie che non sono le vie classiche, canoniche della distribuzione del farmaco in Italia, cioè le farmacie e gli ospedali. Per cui il cercare i farmaci e volere alternative magari su delle mode, su delle pressioni molte volte strane, di pressioni mediatiche o l'amico che ti racconta comprando per vari sistemi, poi la presidente della società di tossicologia sarà molto più precisa, attraverso queste strade i rischi per la salute sono enormi. Lei pensi che ci sono paesi al mondo dai quali molte volte si va a comprare i farmaci per online, tipo l'India, che hanno diciamo non solo contraffazione ma anche alterazioni o non corrette conservazioni dei farmaci pari anche al 40%. Il nostro paese per questo strano fenomeno probabilmente si attesta attorno al 10%. I paesi diciamo che hanno maggiori problemi appunto anche dal punto di vista della disciplina, della regolamentazione, diceva l'India, quali sono gli altri? Professoressa? Essenzialmente l'India, la Cina e soprattutto l'Africa, in cui c'è il mercato dei farmaci salvavita, quindi vaccini, gli antimalarici, gli antibiotici. Diciamo che noi nel nostro paese abbiamo proprio problematiche riguardo alla contraffazione, perché abbiamo un sistema di dispensazione estremamente capillare, per cui il nostro cittadino, il cittadino italiano che si rivolge al mercato dei farmaci non in distribuzione o per vendita illegale online, è più legato ai farmaci ricreativi, così chiamati, ovvero gli ormoni per l'attività dopante sportiva, o i farmaci per la disfunzione erettile, o i farmaci per dimagrire, che magari il paziente non vuole andare ad acquistare per anche vergogna, o non vuole chiedere al medico, il medico stesso non glielo prescrive, oppure il farmaco venduto in Italia costa troppo, per cui ci sono tutte queste vetrine, cose. Non chiamiamole farmacie, ovviamente, vetrine online che offrono un mercato veramente impressionante. Ecco, ma c'è anche un giro, Patrizia Rellion, di materiale, cioè di medicinali rubati che ritornano in circolo. Ma lì il pericolo cos'è? Sia scaduti, ma anche che una volta rubati vengono alterati con dosi più annacquate, per esempio. O mal conservati. Certo, allora anche in Italia stanno incominciando a osservare dei furti importanti negli ospedali, nelle farmacie ospedaliere o durante il trasporto del farmaco. Il problema dei furti dei medicinali è molto pericoloso, perché molti farmaci o vengono rietichettati perché sono in prossimità di scadenza, o possono subire, come ha detto lei giustamente, anche delle importanti variazioni dal punto di vista del quantitativo, cioè altre molecole aggiunte, principio attivo diluito. Però per rassicurare sempre i nostri ascoltatori, voglio dire che il farmaco rubato in Italia quasi mai, fino ad ora almeno, non ci sono state evidenze di rimissione in commercio sul nostro territorio. Di norma i farmaci vengono rubati in Italia per essere rivenduti e riforniti in paesi dove c'è un approvvigionamento dei medicinali diverso, dove non ci sono i medicinali a carico del servizio nazionale come succede da noi, o in paesi in cui lo stesso farmaco ha un prezzo maggiorativo. Parlo essenzialmente del mercato della Germania e della Svezia. Diciamo che nel nostro paese il furto di medicinali non ha mai portato ad ora, fino ad ora non ci sono evidenze di rimissione sul nostro mercato farmaceutico di questi tipi di prodotti. Ecco, Cantelliforti, cosa possiamo dire agli ascoltatori? Innanzitutto, ok, di fare attenzione, di seguire i canali tradizionali, quindi d'accordo, ospedali e farmacie, però si sa che insomma adesso la rete offre delle possibilità amplissime, e anche la vendita dei farmaci si sta regolamentando, quindi esistono delle farmacie online, come dire, certificate. Quindi cosa possiamo dire agli ascoltatori per insomma difendersi ed evitare la truffa? Questo è sicuramente è una strada che stanno percorrendo nella distribuzione del farmaco, i farmaci online, che però riguardano quei farmaci senza prescrizione medica, quei farmaci che molto spesso si può andare in farmacia e trovare la possibilità di farmaci da banco, farmaci. Ecco, poi sa, ci sarebbe anche tutto il discorso del rischio da integratori, perché è lo stesso di quello che stiamo dicendo, vale per gli integratori, e allora è quella confusione che io accennavo prima, che viene fatta nel paziente o nell'aspirante paziente, perché molte volte sono forme di persone che si credono malate o credono di poter fare da sole, e quindi la problematica è molto complessa. Allora bisogna fidarsi dei canali giusti, bisogna stare attenti anche a un altro aspetto, quello che è la travel medicine, cioè quando andiamo negli altri paesi, per la mania degli Stati Uniti, di andare a comprare tutti questi prodotti eccetera, che non sono contraffatti, però comunque sono a rischio, quindi voglio dire i rischi sono enormi, soprattutto andandosi a fidare di queste cose. La salute è un bene che costa lo Stato, è un bene che c'è anche l'obbligo di tutelarcela, quindi bisogna stare molto attenti. Guardi, io non sono, mi permetto una battuta, ma io non sono un cantante, non mi permetto di andare a giudicare un cantante. Quando sento una trasmissione dove vanno a sparare contro i vaccini, è una cosa, guardi, è da scomunica, è una cosa pazzesca. Perché siamo assolutamente d'accordo con lei. Rabbrividente, certo. Grazie a tutte e due. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Macchine, strade, traffico, sentiamo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La chimica è lo studio delle sostanze, ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti. Creazione e dissoluzione, poi di nuovo creazione, poi ancora dissoluzione. È crescita, poi decadimento, poi trasformazione. Signor White. Sì. Ha capito cosa le ho appena detto? Sì. Cancro ai polmoni, non operabile. Non hai niente. Ma tu sei nel giro. E io conosco la chimica. Lei vuole cucinare cristalli di metanfetamina? Lei? Insieme a... L'avrete sicuramente riconosciuta tutti perché mi dicono che è la serie televisiva più amata. Ecco, questo era uno stralcio, un riassunto audio di Breaking Bad. Qui con me c'è anche Andrea Gentile. Benvenuto Andrea, ciao. Ciao Chiara. Allora, tu sei qui per parlarci della scienza delle serie TV, è la tua ultima fatica, tu sei un divulgatore scientifico, un giornalista, scrivi per Wired e per altre testate, ma per Codice Edizioni hai raccolto tutta la scienza che sta dietro le serie TV, diciamo quelle più note. Io ho voluto, non so se sei d'accordo, partire con Breaking Bad, anche perché il nostro regista Filippo Aureggio, insomma, ci ha detto che è la sua preferita, ecco, e abbiamo ascoltato questo piccolo audio riassunto in cui questo professore di chimica Walter White decide di fare che cosa? Decide di semplicemente di mettersi a produrre della droga chiamata metanfetamina, e lo fa in un camper sperduto nel mezzo del nulla insieme a un aiutante, partendo praticamente da zero, usando le sue conoscenze scientifiche per riuscire a entrare nel mondo del crimine e della droga. E tu nel libro, ovviamente nel capitolo dedicato a Breaking Bad, ti prendi la briga di capire se effettivamente è possibile sintetizzare. Intanto, che sostanza è la metanfetamina? La metanfetamina è una sostanza che ha una storia parecchio, che viene da molto molto lontano, perché è stata sintetizzata per la prima volta nel 1893, quindi praticamente davvero un sacco di tempo fa, da Nagao Nagayoshi, che è uno scienziato che inizialmente non aveva capito diciamo quali fossero davvero gli effetti. Infatti inizialmente veniva utilizzata questa sostanza come un decongestionante nasale. Cioè, essenzialmente nel momento in cui uno aveva un raffreddore, per riuscire a sentirsi più liberi si utilizzava questa sostanza. Solamente poi nel corso del Novecento si è scoperto che poteva essere utilizzata anche come droga. E Walter White, all'interno della serie Breaking Bad, utilizza proprio uno di questi dei metodi principali per sintetizzare la sostanza, che è proprio il metodo Nagai, che poi abbandona durante la serie perché richiede insomma una serie di accorti e complessità che non riescono a star dietro con il suo aiutante, per poi passare a un altro tipo di metodo, che è il metodo P2P, che è effettivamente uno delle tecniche che vengono utilizzate attualmente dai criminali per riuscire a creare questa sostanza. Il professor White lo fa dentro un camper, quindi in maniera molto domestica, se vogliamo, con il suo aiutante, lo studente. Ma in realtà è possibile, cioè sarebbe possibile farlo? Viene davvero fatto in maniera anche così un po' domestica? Sono ovviamente laboratori molto più attrezzati che riescono a produrre una quantità molto molto più ampie, però effettivamente è una soluzione abbastanza plausibile. Gli sceneggiatori della serie hanno fatto riferimento a una serie di scienziati per riuscire a presentare informazioni in maniera corretta, ma poi avevano anche il fiato della DEA, oppure della Drug Enforcement Agency, cioè l'agenzia che combatte la droga, certo, all'interno degli Stati Uniti, col fiato sul collo, perché non volevano che il metodo venisse spiegato davvero al dettaglio, anche perché molte delle sostanze che sono utilizzate per produrre la metanfetamina, sia nella serie sia nella realtà, sono tenute sotto stretto controllo proprio dalla DEA, perché sanno che possono essere utilizzate per creare una droga. Può davvero essere sintetizzata così. Va bene, Andrea, dobbiamo andare un po' rapidi perché il libro contiene tante serie. Allora andiamo alla prossima serie. Buongiorno malati, e buongiorno anche ai loro cari. Tanto per non perdere tempo con inutili ciance, io sono il dottor Gregory House, potete chiamarmi Greg. Sono uno dei tre medici di servizio in clinica stamattina. Dolce e conciso, una cartella. Questo raggio di sole è la dottoressa Lisa Coddy. Lei dirige l'ospedale, sfortunatamente ha troppo da fare per dedicarsi a voi. Io sono un abilitato, un diagnosta cronicamente annoiato con duplice specializzazione in malattie infettive e nefrologia, nonché l'unico medico che lavora qui contro la sua volontà. È così, no? Ma niente paura! Per molti di voi, per fare il mio lavoro basterebbe una scimmia con una scatola d'aspirina. A proposito, se siete particolarmente seccanti, mi vedrete prendere questo. È Vicodin. È mio, non potete averlo. Oh, no, non ho il problema del controllo del dolore, è proprio il dolore il mio problema. Ma chi lo sa, magari mi sbaglio. Forse sono troppo impasticcato. Ecco, lo scorbutico impasticato dottor House, Andrea. Anche qui tu sei andato, ovviamente qui c'è tutta la parte di medicina che ovviamente tu affronti. Il medico di solito si basa su sintomi assurdi, da diagnosi un po' strambe, poi arriva sempre però alla soluzione, no? Esattamente, un po' come Sherlock Holmes riesce alla fine a risolvere il mistero che è dietro una determinata malattia, e dottor House lo fa solitamente ignorando totalmente il paziente, cioè cercando di vederlo il meno possibile, perché secondo il dottor House tutti mentono, il paziente mente al proprio dottore, la persona che lui visiterebbe non è un medico, quindi non ha le competenze per raccontare abbastanza bene la propria malattia, e quindi lui si affida semplicemente agli esami, ai referti clinici per riuscire a scoprire il tutto. Nella realtà ovviamente le cose stanno un po' diversamente, il rapporto col paziente è molto importante per capire che malattia effettivamente ha. Certamente, però insomma una serie televisiva, si possono prendere queste libertà. Tu diciamo ad introduzione di questo capitolo ci sono dei bellissimi disegni, non solo di questo ma anche degli altri, di Marco Goran Romano, e in questo capitolo in particolare c'è una zebra, perché tu dici che in ambito medico la zebra è un caso strano, un caso raro. Sì, è un qualcosa, si dice, che utilizza un gergo tecnico che viene utilizzato dai medici, perché sostanzialmente quello che si dice è: se senti degli zoccoli alle tue spalle, quando ti giri non ti aspettare una zebra, ma aspettati un cavallo. Cioè, il senso è, nel momento in cui hai un insieme di sintomi, pensa prima alla malattia, diciamo, più comune che ti aspetteresti, piuttosto che a una malattia troppo rara. Nel momento in cui hai un paziente che ha dei sintomi come febbre, deliri, febbre molto alta, non pensare direttamente alla malaria, pensa magari a un'influenza. Ok, allora andiamo rapidi alla prossima serie. Salve Mulder, sono Dana Skelly, lavoreremo insieme. Sto diventando importante, mi hanno addirittura assegnato un aiuto. A chi hai pestato i piedi per finire così in basso, Skelly? A dire la verità, io sono contenta di questo incarico. Tu sei molto famoso. Ma va? Quello che non capisco, però, è perché l'FBI continua a classificare questi casi come fenomeni incomprensibili e ignorarli. Tu ci credi all'esistenza degli extraterrestri, Skelly? No, a rigor di logica direi proprio di no. Vista la distanza tra la Terra e gli altri corpi celesti, l'energia necessaria sarebbe superiore alle capacità di qualunque veicolo spaziale. Per la scienza ufficiale. Sai che la ragazza dell'Oregon è la quarta vittima di una scuola in cui sono già morti 3 studenti in circostanze misteriose? Ora, visto che la scienza non riesce a darci delle risposte, perché non consideriamo finalmente plausibile quello che sembra fantastico? La ragazza ovviamente è morta per qualche ragione. Quello che trovo fantasioso è accettare l'idea che esistano delle risposte al di là della realtà della scienza. La scienza offre tutte le risposte, basta sapere dove cercare. Mi congratulo con te, sei una perfetta agente dell'FBI. Andrea, io adoro Dana Skelly, scusa, io ho scelto questa di raccontare la serie televisiva un po' più vecchiotta, appunto, X-Files, però è divertentissimo in questa serie come la scienza, rappresentata appunto da Dana Skelly, si contrappone invece alla pseudoscienza, vogliamo dire così, dell'agente Mulder. Sì, il prototipo del complottista attuale, cioè, quindi la serie è molto attuale, oltretutto c'è stata anche una ripresa con una miniserie. Sì, è uscita recente. E mentre Dana Skelly è la persona positivista che crede assolutamente nella scienza e dice, come abbiamo sentito, che gli alieni non riuscirebbero mai arrivare fin qui. In effetti uno, diciamo, dei pianeti che potrebbero essere più simili alla Terra, che è stato scoperto recentemente, è a 1400 anni luce di distanza da noi, quindi significa che anche viaggiando alla velocità della luce, cosa attualmente non possibile, un alieno dovrebbe metterci 1400 anni per arrivare fino a noi, e la cosa ovviamente è un po' improbabile. Ecco, tu nel libro in realtà racconti anche che ci sono dei progetti, famoso e importante il progetto SETI americano, in cui in realtà c'è tutto uno studio che volto appunto alla ricerca davvero di forme di vita fuori dal nostro sistema solare, insomma. Esattamente, perché comunque siamo in ascolto, utilizziamo i radiotelescopi, che sono dei telescopi che captano le onde radio, per riuscire a ricevere e a capire, questa cosa più difficile, se effettivamente ci sono delle specie intelligenti dall'altra parte del cosmo che stanno cercando di comunicare con noi. Il problema, come nel caso del viaggio, è sempre il tempo. il ritorno. Segnale che arriva, sì, il segnale che arriva da noi, a noi da mille anni luce di distanza, ha impiegato mille anni, ed anche se dovessimo rispondere agli eventuali alieni, impiegheremo altri mille anni per riuscire a avere un messaggio di risposta. Ok, dai, concludiamo velocemente con la serie, quella l'ultima, la più divertente. Oh, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se ha davvero scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al Comic-Con e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Creep, che aveva le stesse lacune che affliggevano Bua il Cacatua quando arrivò allo zoo. Bua il Cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico e io ne ho distillato l'essenza ricavandone un diagramma di flusso che mi farà da guida. Mai pensato a rinchiuderlo in una cassa quando devi uscire da casa? Andrea, The Big Bang Theory, già insomma il nome la dice lunga. Qui sono un gruppo di nerd divertentissimi, spassosissimi, che praticamente passano la vita a raccontarsi questi aneddoti, appunto, della distillazione dell'algoritmo dell'amicizia, dell'amore, perché hanno una vicina di casa anche insomma piuttosto carina, di cui uno di questi nerd si innamora. Qui certo la scienza ce n'è parecchia, perché loro di fatto sono degli scienziati, tutti. Sì, sono praticamente tutti degli scienziati, quindi si vede anche quali sono le dinamiche all'interno della comunità scientifica stessa, e quindi le differenze tra magari fisici teorici che pensano le teorie e i fisici invece sperimentali che le mettono in pratica e le testano. E si vede anche la rivincita, diciamo, del nerd, che negli ultimi anni fortunatamente è tornato molto in auge. Sono sì persone, diciamo, spigati, nerdoni, però sono anche persone che hanno una loro forte genialità. Ecco, il protagonista, se non erro si chiama Sheldon, ha anche un disturbo, insomma, leggero allo spettro autistico. Diciamo che questa cosa viene molto utilizzata nella serie per esorcizzare questa cosa, per far capire, insomma, che non è un problema, cioè non è una malattia. Sì, sì, sì, assolutamente. La sindrome di Asperger, che si suppone sia Sheldon, diciamo Sheldon Cooper, una persona con questo tipo di malattia, di disturbo più che malattia, perché comunque è una persona che ha una propria vita normale, semplice, interazioni con gli amici, ha una fidanzata e tutto, però viene utilizzato un po' come modello proprio del fatto che anche con un disturbo dello spettro autistico la vita sia totalmente normale e soddisfacente, proprio come un esempio positivo, un modello. Va bene Andrea, allora ripetiamo: La scienza delle serie TV, Codice Edizioni. Andrea Gentile è stato qui con noi e ricordiamo le illustrazioni molto molto carine di Marco Goran Romano. Grazie Andrea, alla prossima. Grazie a voi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, però ci piace ricordare agli ascoltatori come possono rimanere in contatto con noi attraverso la mail moebius@radio24.it. Quando volete mandateci le vostre domande, ne abbiamo in cantiere un po', nelle prossime settimane ve le faremo ascoltare e sentire. E poi ovviamente i social, Facebook, Twitter, ci trovate ovunque, insomma seguiteci. E comunque buona settimana a tutti e a tutte.